l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato 20 dicembre siamo in diretta qui dagli studi di Radio 24 di Milano. Oggi è San Liberato, ma invece stanotte vi hanno fregato con la finanziaria, quindi non siete liberati. Sarà un santo un po' incatenato quello che vi descriveremo oggi, ma saluti come sempre dalla nostra compagnia, i compari Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Francesca Del Rosso e Oscar Giannino. Allora vedrete, come al solito, oggi non posso rinviarvi al sito della nostra trasmissione perché questa azienda purtroppo ha delle defiance e quindi si faccia autocritica, ragazzi, perché bisogna scusarsi con gli ascoltatori e spiegare quello che succede. Noi ci terremo molto a pubblicare sulla pagina della nostra trasmissione, sul sito della radio, i contenuti e i documenti che lavoriamo come piccoli monaci per la settimana per accumulare, farvi capire, però poi non ce li pubblicano. E allora, detto questo, vi dico io di che cosa parliamo oggi. Oggi abbiamo un bel bloccone per chiedervi di telefonare 800 24 00 24 oppure gli sms 349-238-6666 sul tema Olimpiadi sì, Olimpiadi no. Roma si candida alle Olimpiadi 2024 e la domanda è: siete convinti che candidarsi alle Olimpiadi sia un atto di patriottismo contro il quale chi obietta è un pericoloso disfattista, è un nemico del governo attuale, di quelli futuri, di quelli presenti, di quelli passati? Oppure pensate, poi diremo come la pensiamo noi ovviamente, che per candidarsi bisogna avere uno straccetto di numero, un piano, sapere chi ci mette i soldi, quanto ci hanno perso gli altri, se il caso, dopo questa piccola leziosa vicenda che si chiama mafia capitale, di immaginare che quello è il luogo dove tutto avviene secondo le più logiche e coerenti aritmetiche d'impresa. Allora telefonateci per dirlo, noi ospiteremo ospiti per il sì, ospiteremo ospiti un po' più critici che chiedono di fare dei numeri, ma intanto primo blocco Boccone. Questo. Ma intanto cominciate a correre, perché non so se siete leoni renziani o gazzelle liberali, comunque sia da qui al 2024 vi tocca correre, perché in ogni caso abbiamo cominciato a spendere, caro Oscar, per mettere in piedi questa candidatura. Come sempre. Allora, poi un secondo bloccone che lo sapete, qui ci sono dei maniaci della rete. Allora, partiamo dal dato delle ricerche, di cosa avete ricercato su internet. Attenzione, in un paese in cui però 22 milioni di italiani, come dice l'Istat, la rete proprio non sa neanche dove sta la non rete. Sanno neanche l'unica cosa sta, che possono sapere è che esistono, come dire, dei computer che loro non accendono mai. Ecco. 22 milioni di italiani non hanno mai messo un dito su uno schermo. Allora, detto questo, però, noi ci interrogheremo su cosa avete cercato e che cosa questo dice di noi, di voi, ma tenendo sullo sfondo che siamo comunque, continuiamo a essere in fondo alle classifiche comparate. Ed è un problema mica di essere fighi o alla page, è un problema di produttività generale, è un problema di minore capacità di noi tutti di esercitare i diritti. Esatto. È un problema di democrazia, esatto, e di cittadinanza, non è solo un problema di tecnologia. Togliamoci dalla testa che Internet sia un problema di tecnologia o di ragazzotti brufolosi. È una esigenza di modernità, cittadinanza e produttività economica. E di questo ci occupiamo dalle 11 alle 11 e mezza, con una coda che è relativa proprio esattamente ai diritti digitali, perché ci chiederemo come mai, per esempio, nella sanità il servizio pubblico non è in grado di darci una comparazione digitale per tipo di patologia e di intervento di successo, capace di consentire a noi tutti, se abbiamo un problema o ce l'abbiamo in famiglia, di capire dove andare. Noi facciamo turismo sanitario tra le regioni sulla base del fai da te, chi conosce di che ti mando io e così via. Non c'è una cosa di questo genere. Dovrebbe essere elementare per capire A. come si spendono i soldi, B. chi giustamente è più bravo a raccogliere eccellenze in alcune specializzazioni, perché non è che si può fare tutto dovunque per tutto, è sbagliato, non serve economicamente, ma soprattutto non serve tenerci alla cieca come dei topolini ciechi in fondo alla nostra tana, mentre il gattone stato naturalmente gnam, gnam, gnam, gnam. Rapido giro, che cosa vi ha fatto arrabbiare in settimana, Francesca? Ma a me ha fatto arrabbiare molto l'appello e la dichiarazione della madre di Ilaria Alpi, che ha detto che il premio Ilaria Alpi è diventato inutile e non serve più. Dopo 20 anni non ha ceduto, ha detto che non vuole più questa associazione, non vuole più il premio, perché in qualche modo non è riuscita, dopo 20 anni dalla morte, il 20 marzo del 94, della figlia Ilaria Alpi a Mogadiscio, a scoprire perché sua figlia è stata uccisa, una giornalista del Corriere della Sera, da chi è stata uccisa, insomma 20 anni di totale oscuramento delle notizie, quindi un premio inutile. E ma ti ha fatto arrabbiare che lei dica che è inutile ha ragione, mi fa molto arrabbiare dire che ha ragione e spero che le cose possano cambiare. Lei comunque è assolutamente decisa a chiudere il premio, che se ci pensi è una cosa anche un po' triste, è amara. Io sono, capisco la sua amarezza, credo che non ne sapremo, cioè quello è un contesto in cui le storie sono intrecciate e non sono documentabili, cioè chi ha un'idea di che cosa stiamo parlando, cioè il contesto in cui viene uccisa Ilaria Alpi è un contesto in cui non è che si possono fare le indagini con i RIS come i telefilm americani, per così dire, cioè tra Signori della Guerra è cambiato tutto, quindi temo che sia un'amarezza comprensibile. Ma e invece Mario? Ma io vorrei essere monotematico e monomaniacale. Abbiamo avuto la definitiva estinzione, cessazione, seppellimento del regime dei minimi, di cui abbiamo parlato settimana dietro qua. Quindi il governo è riuscito in questa opera, diciamo, di demolire una delle pochissime cose che funzionavano in Italia sul piano fiscale. Bene così, diciamo, andiamo avanti verso la distruzione, verso l'insipienza fiscale più completa di un governo che ha deciso di radere al suolo questo paese, almeno sul piano fiscale. Questa è la mia posizione e assumo la responsabilità di quello che dico. I fatti e i dati sono davanti agli occhi di chi li vuole vedere e la storia parlerà molto chiaramente sull'attività fiscale di questo governo. Scusate il tono assai poco lieve, ma faccio fatica, malgrado lo spirito natalizio. Diciamo che sono abbastanza irritato per alcune cose che vedo e poi parleremo magari anche della famosa incentivazione fiscale agli investimenti in economia reale dei fondi pensione, che anche quella, se io dovessi scegliere cosa mi ha fatto più incazzare durante la settimana, dovrei prendermi tutta la trasmissione e voi dovreste darmela, mi astengo e mi fermo qua, diciamo. Allora, per capirci, nel regime precedente dei minimi significava che fino a 35 anni si pagava, stiamo parlando di partite IVA autonome, il 5% fino a 30.000 di reddito, quindi è un'agevolazione molto forte per chi era più giovane. Con la legge di stabilità, con il PIF, il 5% non c'è più, non ci sono più i 30.000 di reddito, lo Stato decide per tipologia di professione, pazzescamente, studi di settore, qual è la soglia di reddito tra i 15 e in alcuni casi 40, ma tra i 15, più sono i 15, quindi la metà dei 30.000 di primo, però si paga tre volte tanto. E li cumula con il reddito di lavoro dipendente. Entro i 20.000, ma se il reddito di lavoro dipendente è comunque prevalente, non si ha possibilità di accedere al regime. Quindi, facevano prima a rimuoverlo e a finirla con questi giochetti. Facevano prima a dire state a casa e non lavorate, perché almeno possiamo fare belle iniziative sulla disoccupazione. A me invece ha fatto incazzare questa mattina alle 5 scoprire che l'Italia è di nuovo un paese senza democrazia fiscale, perché il maxi emendamento approvato al Senato è una offesa al principio della rappresentanza fiscale. Cioè, noi abbiamo un Parlamento che ha approvato un cumulo di macerie fiscali, un coacervo di norme illeggibili in cui vengono meno i principi minimi di trasparenza. Oscar, non è così che si fa. Il governo ci aveva promesso di cambiare metodo, di essere più trasparente, e invece ricade tutte le volte nella stessa modalità di mercato delle vacche notturno con le quali sotto Natale si concludono l'unica poi legislazione formale di questo paese, che è la legge finanziaria. Ecco, scusa Carlo Alberto, spiegaci meglio, perché anch'io mi sono svegliata stamattina capendo che stanotte stava succedendo qualcosa mentre noi dormivamo. Ma questo paese ha adottato una prassi che è mettere tutto in una cosa che chiama maxi emendamento, che contiene centinaia di norme del tutto eterogenee, e farlo approvare, prendere o lasciare, vuoto per pieno, che ti piaccia o meno, in una forma di forzatura. E perché di notte? Di notte, perché di notte tutte le vacche sono nere, diceva Hegel, perché di notte nessuno distingue più nulla, perché di notte nessuno... Ma perché i ladri vanno di notte e lo Stato è ladro! Iniziamo ad esaminare un pochino la questione, su cui vi chiediamo di telefonare all'800 24 00 24, le Olimpiadi, lo sapete, candidata a Roma, questa settimana si è fatta avanti con Renzi molto convinto, stiamo parlando delle Olimpiadi del 2024, tempi di questa operazione, i tempi sono fine febbraio, inizio marzo, il Comitato Olimpico Internazionale a Losanna fa una prima valutazione delle candidature nel frattempo pervenute. salute, poi diciamo si va avanti fino a dicembre per esaminare da parte del Comitato Olimpico quelle che dovranno essere le caratteristiche vere della manifestazione e si sceglie poi nel 2017. Il punto è che immediatamente sui giornali italiani si è aperto un grande dibattito, perché chi ha proposto è molto polemico, dice che chi obietta è un antipatriota, è convinto che l'Italia sia sfiduciata. Renzi ha detto: io con questo non vi rendete conto che contribuisco anche a raddrizzare l'immagine di Roma che è lordata di fango per via dell'indagine su Mafia Capitale, invece la mandiamo sui giornali perché abbiamo l'ambizione delle Olimpiadi. Poi ha aggiunto che saranno Olimpiadi diverse, Firenze, guarda caso, avrà molto a che partire con i giochi, però ha detto anche Napoli, la Sardegna, eccetera, eccetera. Tenete conto che sullo sfondo fino a questo momento noi non abbiamo visto un progetto, non ci sono numeri. La risposta naturalmente dei promotori, cioè di Renzi e di Malagoa, dice: vabbè, ma i numeri ve li daremo più avanti, quando poi formalizzeremo la candidatura, parleremo con il Comitato Olimpico, saranno Olimpiadi low cost. Allora, questo è lo stato degli atti, per così dire. Nel frattempo noi abbiamo deciso oggi di avere una voce a favore e una voce contraria, e poi commentando gli interventi tutti vi spieghiamo come la pensa ciascuno di noi. Noi non siamo organizzati, mica la pensiamo tutti allo stesso modo, però per spezzare una lancia a favore, per così dire, è con noi Dino Ruta, che è direttore dello Sport Knowledge Center della SDA Bocconi. Buongiorno Ruta. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, che cosa le spinge a dire che, naturalmente, poi, il progetto quando lo avremo ne parleremo, però perché lei non ha dubbi e dice meglio sì che no? Meglio sì, perché per cambiare occorre avere un progetto e un'ispirazione, un'idea, un'identità. Le Olimpiadi sono l'unica cosa che nello sport possono dare veramente una svolta al cambiamento. Quindi Roma ha bisogno di cambiare, lo sport italiano ha bisogno di cambiare. Fra 10 anni, immaginiamo anche fra 10 anni, noi saremo in un'altra situazione, saremo usciti da questa situazione di crisi. Non si sa come saremo, ma sicuramente dovremmo assolutamente riprenderci, oppure siamo destinati veramente ad essere tristi. E quindi io penso che assolutamente sì. Sono preoccupato soltanto di una cosa, che questa idea della candidatura low cost vuol dire farla su tante sedi. In realtà è qualcosa che non so se piacerà mai al Comitato Olimpico, perché loro credono molto nello spirito olimpico, quindi nel villaggio olimpico con gli atleti tutti insieme. Quindi io sono favorevole, con alcune preoccupazioni su come sarà impostata questa candidatura. Nel senso che lei sarebbe in realtà più favorevole ad accentrare, cioè a Roma? Io sono favorevole a vincere, quindi il tema è come si fa a vincere. Il tema qui è capire che cosa hanno nella testa i vari membri del CIO. Losanna ha fatto una cosa estremamente affascinante, ha detto: io cambio i criteri per candidare le città, perché se nessuno si candida praticamente il CIO crolla, l'immagine del CIO crolla. Loro hanno allargato i criteri dicendo: si possono candidare più città, e questo serve loro alla competizione, il battage, i media, quello che sta accadendo anche in questi giorni in Italia. Quello però che dove loro non si sono espressi è che non sono mai cambiati i criteri di assegnazione. Quindi loro dicono: voi potete farci tutte le candidature che volete, diverso da prima, quindi molta libertà di presentazione, ma non si sono espressi sui criteri che saranno utilizzati per la candidatura. Da quello che so io, loro amano il villaggio olimpico, amano lo spirito olimpico, amano che tutti gli atleti devono stare insieme. Se facciamo le Olimpiadi in 20 città, non so se questo si riuscirà a fare. E quando si sapranno i criteri, mi scusi, abbiamo un'idea? No, i criteri sono essenzialmente quello che, diciamo, loro distinguono i criteri dalle ragioni. Quindi i criteri sono quelli che risiedono nei materiali, nei documenti. Poi le ragioni sono quelle informali, le ragioni sono quelle politiche, sono quelle che Malagò deve riuscire a cogliere nelle emozioni di chi andrà a votare, perché lì i voti sono tanti, e quindi non è una sfida 5 contro 4 o 10 contro 9. Sono numeri importanti dove occorre individuare delle ragioni. Quindi il tema centrale di queste Olimpiadi è che anche grandi città che da anni ci provano, pensiamo a Chicago, adesso stanno ragionando gli americani come Los Angeles e San Francisco, però anche loro hanno detto: possiamo fare una candidatura unita a San Francisco e Los Angeles, fondamentalmente hanno risposto no, perché singolarmente Los Angeles e San Francisco possono candidarsi autonomamente. Quindi da questo punto di vista vuol dire che loro dicono sì, potete candidarvi come volete, ma nei fatti valuteranno sempre la qualità della candidatura. Ma possiamo avere una ragione economica, organizzativa, al di là del buttare il cuore oltre l'ostacolo, al di là dell'appello emotivo, che si può capire, però insomma evidentemente è un impegno importante finanziario. Le ultime Olimpiadi non sono state un grande affare per i paesi che l'hanno ospitate. C'è qualche ragione economica per dire che è un buon investimento collettivo, Dino? Caro Alberto, la tua domanda è sempre pungente e va al cuore. Il tema è, ci sono due budget nelle Olimpiadi, quelli che servono effettivamente per fare i giochi e quello che il paese poi mette in campo per ammodernarsi. Faccio un esempio, se Roma decide di rifarsi l'aeroporto, non è il budget strettamente collegato per fare le Olimpiadi, è un budget che decide di mettere in virtù di un maggior flusso di persone che arriveranno. Ma Roma è già abituata ai grandi flussi, pensiamo a tutto l'indotto della Chiesa o ad altri grandi eventi. Quindi da questo punto di vista il vantaggio di Roma è che non dovrebbe avere necessità di grandi altri investimenti, dovrebbero essere essenzialmente investimenti orientati agli impianti sportivi, e anche lì Roma si trova abbastanza avvantaggiata. Per questo motivo, per dirvela tutta, Milano non potrà mai ospitare un'Olimpiade nei prossimi 50 anni, se questi sono i criteri, perché non abbiamo impianti e non abbiamo neanche l'infrastruttura di Roma. Io non lo so se veramente, come dice lei, Roma non ha bisogno di infrastrutture. Io so che nella decisione per le Olimpiadi del 2020 il Comitato Olimpico ha fatto la scelta di chi le aveva più avanzate, perché confrontando gli impegni di spesa, la Turchia aveva buttato sulla bilancia al Comitato Olimpico oltre 15 miliardi di infrastruttura e il Comitato Olimpico si è grattato la testa. È chiaro che c'è anche una questione di instabilità politica, il giudizio sul regime di Erdogan. Dall'altra parte Madrid diceva 1,5 miliardi e il Comitato Olimpico si è grattato la testa, eccetera eccetera. Hanno scelto Tokyo perché negli 8 miliardi di infrastrutturazione è quasi tutta roba che Tokyo ha già. Quindi allora, che il livello di infrastruttura di Roma sia paragonabile, se vogliamo prendere, mi scusi, il criterio scelto dal Comitato Olimpico per l'Olimpiade 2020, un buon livello infrastrutturale che non comporta spese aggiuntive, mi sembra che non ci siamo, tanto per incominciare. Uno, quindi c'è bisogno di infrastrutturazione aggiuntiva che ordinariamente Roma Capitale, con gli strumenti che ha e con i debiti che ha, non la vedo in grado di formulare. Sto parlando di assi di trasporto terrestre, ferroviario, abbiamo appena cominciato a mandare una finta freccia a Fiumicino, per capirci, dal punto di vista ferroviario e così via. Quindi c'è da spendere. La mia domanda è quanto? Mi dicano quanto, io capisco. Se non mi dicono quanto, il criterio seguito per l'Olimpiade 2020, sbaglierò, mi dica lei dove però, non mi fa pensare che noi partiamo molto avvantaggiati rispetto a un bis di Los Angeles. Los Angeles, se ripetiamo, è delle esperienze recenti, negli ultimi 20-30 anni, quella di Olimpiade in cui pagata tutta dai privati, ecco perché non ci si è rimesso, altrimenti il pubblico ci rimette sempre. È così o no? Dove sbaglio, Dino Ruta? Non sbaglia in nulla. E proprio qui il tema è capire qual è la soglia per dire infrastruttura accettabile. Dobbiamo un po' capirci che cosa serve per fare un'Olimpiadi nel mese di agosto e capire il flusso di persone nel mese di agosto. Per esempio Londra ha avuto un crollo del turismo perché nessuno è andato a Londra ad agosto. Loro avevano calcolato dei turisti più il flusso olimpico. In realtà i turisti non si sono neanche presentati perché hanno detto che vado a fare a Londra mentre ci sono le Olimpiadi, e quindi poi alla fine il flusso delle Olimpiadi, immaginiamo proprio fisicamente, sono gli atleti, i paesi e tutti i biglietti che riescono a vendere. Adesso io non vorrei neanche, cioè il flusso dell'Expo me lo immagino di gran lunga superiore, anche perché per molti più mesi e per un numero molto più alto di persone, di biglietti che possiamo vendere. Se posso, Dino, c'è questo tema che i business case che supportano queste grandi iniziative politico-istituzionali sono business case spesso basati su un concetto differenziale, cioè arriveranno turisti in più, ci sarà questo investimento in più. In realtà si rivelano flussi sostitutivi, e cioè non tengono conto che la gente anticipa la complessità e se ne sta a casa. Questo è vero anche per la pubblicità. Ricordo il grande flop economico della pubblicità televisiva delle Olimpiadi di Londra, perché tra qui a 10 anni le tecnologie per raccogliere sponsor non saranno poi così facili. In questo senso chiedo, ma dove sta il business case? Come facciamo a pagarcela? Perché capisco le infrastrutture, capisco l'ammodernamento, ma non capisco il lato ricavi. Tutto questo chi lo paga? Cominciamo a sentire un po' opinioni anche di ascoltatori. Carlo, che è in linea da Roma proprio. Prego, Carlo. Buongiorno. Buongiorno. Io ho paura che siamo davanti a un nuovo caso di un comandante renzino che porterà la nave Italia sugli scogli, ben sapendo che le carte nautiche sono precise. Lo scoglio è sempre lì. Noi abbiamo a Roma una vasca olimpica di Calatrava che o ci mettono 300 milioni di euro per chiuderla, sistemarla e smontarla, o ci mettono 300 milioni di euro per farla funzionare, ma 300 ce ne hanno già messi. Non possiamo permetterci adesso, con risorse che non ci sono, con un piano industriale che non c'è, con una tecnologia, come diceva l'intervento precedente, che non sappiamo dove porterà i ricavi e da dove proverranno. Abbiamo un paese che fa acqua, abbiamo una città, Roma, io mi occupo di sicurezza stradale e viaggio di notte sul raccordo anulare senza illuminazione insieme alla polizia stradale che rischia la vita, abbiamo una città in condizioni fatiscenti, aggiustiamo prima le toppe prima di fare un grande buco, altrimenti faremo il record rispetto a quello che ha sfiorato il comandante Schettino, che ha avuto molta fortuna. Se non abbiamo la sua stessa fortuna faremo un record, ma molto molto negativo. Allora, un po' di sms dei nostri ascoltatori. Intanto Andrea pensa che andarselo in piedi serve intanto a pagare una pletora di consulenti. Giovanni Bergamo ci dice: le Olimpiadi sono un lusso che non ci possiamo permettere. Poi vabbè, qualche pregiudizio su di noi, ma quelli non mancano mai. Un altro ascoltatore che dice: contrario alle Olimpiadi, la storia si ripete dalla decadente Roma imperiale di 17 secoli or sono, con Panem e Circense siamo passati a 80 euro per la pizza alle Olimpiadi, intanto i barbari arrivano a frotte. Però qui c'è una domanda e io voglio girarla al nostro ospite di Noruta. Ma ha ancora senso farle le Olimpiadi? Qual è il senso vero sportivo? Rispondo a questa domanda, sì, e anche a quella di Carlo Alberto. Per me i ricavi fra 10 anni arriveranno su delle logiche completamente diverse da quelle delle sponsorizzazioni. 10 anni è un'infinità rispetto ad oggi. Ragioneremo su un meccanismo nel quale possiamo donare i 5 euro tramite telefonino, e questo è qualcosa che accadrà fra due o tre anni. Possiamo pensare adesso, tutti i programmi che hanno più successo in televisione hanno la votazione tramite telefono, pensiamo a X Factor o altri. Quindi ci sarà una logica di diffusione, di mobilità, di rete e di mobilitazione se gestita bene. Qui vengo alla seconda domanda e quindi alla mia risposta. Se gestita bene da persone che sono in grado di interpretare questo progetto olimpico come un progetto di cambiamento dell'Italia, di identità dell'Italia, quasi come se fosse un modo per vincere una sorta di guerra contro la crisi, secondo me possiamo trovare le risorse, possiamo trovare anche lo stimolo per migliorare le competenze dello sport italiano. Alcuni messaggi tecnici per i nostri ascoltatori. No, per alcuni renziani che iniziano a identificarci come forieri di pregiudizi nei confronti del governo, no, guardate, vi abbiamo detto che è passata la notte, e io ho detto ladri, in senso tecnico, perché non è come dite voi. Alcuni di voi dicono: piantatela di dire balle, è tutta colpa dell'opposizione. No, cioè ieri il maxi emendamento annunciato per le ore 14 del pomeriggio il governo non lo aveva, perché la Ragioneria Generale dello Stato ha dovuto prendersi fino alle 2 di notte per rileggere tutto ciò che la maggioranza, capite questo termine cosa vuol dire? La maggioranza in commissione, in bilancio, aveva infilato nel testo finale senza avere la bollinatura del tesoro, scassando i conti. Si parla di decine e decine di mance. Questa roba, con l'opposizione che c'è stata, durissima, tutto quello che volete, non c'entra niente, è il solito riflesso condizionato della politica, all'ultimo monto frego e do i soldi per gli amici, come questa settimana abbiamo visto molti comuni continuano a fare, continuamente anche quelli scassati. Però per spiegarvi tecnicamente, perché se no non ci intendiamo, io qui devo fare, oltre che il portatore d'opinione, il giornalista, non è che posso dirvi che stanotte hanno votato alle 2 per una ragione diversa da quella che è stata. Sui giornali non troverete ancora, tecnicamente aggiungo, l'elenco delle mance, perché stanotte era troppo tardi per individuarle. Aspettiamo il giornale di domani e vedrete quelle che sono state cassate. Le tasse restano, come ha detto Mario, la tassazione retroattiva sui fondi previdenziali resta, con l'indicazione di dove dovremmo, implorando pietà, investirli, ce lo dice il sottosegretario Baretta, per avere uno sconticino. Hanno confermato l'aumento previdenziale, per capirci, sul fondo speciale INPS, quindi tutto quello che abbiamo detto per questo totalmente inascoltato. Vi faccio riflettere che resta un problema aperto sui 20.000 dipendenti delle province. La riforma delle province ha fatto rimanere alle province riformate non elette gli 8.9 miliardi di risorse fiscali, perché quelle continuano a incassarle, in più ci sono adesso 20.000 esodati da sistemare a spese vostre. Ma qui mi taccio. Il ministro ci ha detto abbiate fiducia, hai letto ieri, ha scritto il chiaramente ministro... scusa Oscar, poi oggi appunto in prima pagina sul Corriere, se tu apri il Corriere vedi in prima pagina manovra, il caso delle mance, c'è chi si pone anche la domanda che c'entrino anche le mance quelle al ristorante. Ah no, no, stiamo parlando delle mance date agli amici con i soldi nostri, ai clienti, come si dice, che no, si infilano dentro solo per nelle dire ultime perché ore, cioè. Noi ironizziamo, ma ironizziamo non spacciandovi cose diverse da quelle che sono i fatti, eh? Purtroppo i fatti sono questi, per questo si è arrivati alle due di notte. Ma stiamo parlando delle Olimpiadi, abbiamo sentito un'opinione favorevole di Noruta, favorevole però critica, costruita sulla speranza, diciamo, cioè, ma bisogna avere speranza, bisogna avere anche un po' crederci. Poi guarda, se fanno le Olimpiadi a Roma, io sono contentissima, così vado a Roma, me le vado a vedere, in tre ore ci arrivo. Io credo che bisogna avere un pochino di fiducia, se no, ragazzi, Olimpiadi... ci abbattiamo completamente. Dopo... Mafia capitale, sempre... dopo gli amici di Montezemolo e il mondiale degli anni però, 90. Ascolta, io vedo che anche riciccia anche. Lo so, però non possiamo solamente buttarci giù. Tra dieci anni magari le cose saranno cambiate. No, i mondiali 90 sono tanti anni fa, i mondiali di nuoto sono più recenti, la stessa cosa. Ho capito, però dire, dobbiamo cercare di avere un pochino più di fiducia in noi stessi. Le Olimpiadi di Torino? No. Vogliamo parlare delle Olimpiadi di Torino e del fardello di debito che è rimasto? Che tipo di volano infrastrutturale c'è stato? Allora, andiamo a vedere gli impianti successivi, le promesse di riutilizzo degli impianti delle Olimpiadi di Torino, che pure hanno dato uno slancio alla città. Tranne il fatto che c'è un'onda di debiti che continua a esatto, aliquote esatto, al massimo. Questo, però esatto, impianti non riutilizzati, come si fanno sti progetti, Carlo? Tu che dici? Ma perché un po' guarda che qui la critica anche ai signori economisti è forte, perché spesso qua ci sono stime di costi-benefici e poi vanno da tutt'altra parte. Un popolo che ha bisogno di una scusa per prendere decisioni di investimenti infrastrutturali è un povero popolo, secondo me. Se a Torino serviva una metropolitana andava fatta, esatto, spiegando ai cittadini che bisogna poi pagarla. Esatto. No? Usare la scusa del grande evento è un modo per trattare la democrazia da minorati mentali. Però anche qua numeri, se noi vediamo, abbiamo rifatto il conto, 2008-2014, quindi con i conti presumibili alla chiusura di questo anno, la famosa austerità pubblica è spesa pubblica corrente più 3%, spesa pubblica per investimenti, quella di cui stai parlando tu, meno 37,5%. Esatto, e quindi qua tagliano solo gli investimenti, ecco perché poi vogliono le occasioni speciali per fare le opere infrastrutturali. Comuni, quelli che tanto protestano, spesa corrente 2008-2014 più 17%, spesa per conto capitale investimenti meno 48%. Stiamo facendo pagare alle generazioni future, che quindi no, siccome non possono votare oggi perché non sono ma ancora per questo nate, vogliono le Olimpiadi, capisci? Questo è il problema. Ma le Olimpiadi non le possono pagare i privati? Ah, è successo il caso, voglio dire, di Olimpiadi moderne col conti in regola, col segno più e zero per il contribuente. È la rivoluzione che avvenne per le Olimpiadi di Los Angeles, in cui Uber Roth, il mitico manager del comitato promotore di Los Angeles, disse al CEO: guardate, siccome qua il contribuente non vuole pagare un dollaro, questa Olimpiade la organizziamo solo privati. Il CEO non voleva dargliela perché diceva: come solo privati? Ci riuscirono, strappò un mega contratto solo con l'ABC di 225 milioni di dollari con una sola catena televisiva. Andiamo. Risultato: contribuente zero, denaro pubblico zero, Olimpiadi col segno più. Però ecco, qui stiamo parlando dell'America, ecco. In vabbè, Italia, ma possiamo farcela anche noi, dai, solo forza, abbiamo solo 10 anni. Solo privati? Una beh, buona maggioranza. Facciamo così, se la facciamo solo privati, voto anch'io. Ma non scusate, in Italia i privati non esistono. Ecco. I privati in Italia sono una letteraria, diciamolo. Allora, siete allora, dei disfattisti. Sentiamo intanto Massimiliano Trovato, che come ricercatore dell'Istituto Bruno Leoni ha scritto proprio un paper. Io vi invito tutti ad andare sul sito di Bruno Leoni e cercare questo paper, perché ci sono i conti comparati di tutte le edizioni olimpiche. Buongiorno e grazie di essere con noi, Massimiliano Trovato. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, che cosa ci dice in sintesi, dovessimo dire ai nostri ascoltatori la sintesi dei numeri comparati delle precedenti edizioni? Che cosa abbiamo da imparare, da non ripetere, e a suo giudizio c'è anche un'indicazione positiva da seguire, senza scartare a priori, ma questo progetto come dovrebbe essere fatto per stare in piedi? Ma quello che si impara è che i 6 miliardi di cui ha parlato Renzi molto probabilmente diventeranno almeno 10, nel senso che secondo le valutazioni fatte sulle stime di spese, sulle spese effettive per le Olimpiadi negli ultimi 50 anni per cui sono disponibili i dati, si osserva uno sforamento medio del 179%. Medio del 179%. Questo lato investimenti, Massimiliano, perché poi lato ricavi non ne parliamo. Questo esatto, solamente tra l'altro per i soli costi sportivi, per cui senza considerare le infrastrutture generiche come quelle dei trasporti. Dei trasporti, quelle aggiuntive. No, ma noi facciamo pagare Francesca. Ma le abbiamo già fatte anche per il Papa. Dai, ci stiamo avvicinando. Su, dai, non dobbiamo essere disfattisti. Basta, adesso farò una campagna. Ma poi l'anno dopo c'è anche l'anno santo. Appunto, abbiamo un pochino, ci abbiamo un po' lavorato. Poi guarda, mi fa ridere questa cosa perché i romani non le vogliono. Ci lavorano, a Mafia Capitale ci lavorano molto su queste cose. Si tratta di capire come, Francesca. L'importante è partecipare alle gare d'appalto. Fatte con affidamento diretto, magari. Questo. Non ci siamo. No, però aspetta, ma come non ci siamo? Ascoltiamo Massimiliano e leggiti un po' i suoi numeri comparati. Allora. Con una battuta, le Olimpiadi piacciono a tutti. Io sono un grande appassionato di sport. Nessuno odia le Olimpiadi. Sì, ho capito, però se dobbiamo farle per introdurre la disciplina del sollevamento delle tasse, non la voglio. Hai capito, Massimiliano? Se dobbiamo farle per introdurre la disciplina del sollevamento delle tasse, che noi siamo campioni al mondo, allora no, dai, ti ho interrotto, scusami, vai avanti. No, nessun problema. Quindi questo dal punto di vista degli investimenti, dal punto di vista invece dei benefici pubblici, i numeri sono molto fumosi, nel senso che le stime stesse, come ricordava poco fa Carlo Alberto, in realtà sono stime di impatto e non stime di costi-benefici, per cui si stima il flusso aggiuntivo di turisti, per esempio, spesso sbagliando, come abbiamo visto a Londra, ma non si stima lo spiazzamento di attività economiche alternative, per esempio il fatto che i londinesi stessi abbiano approfittato del periodo delle Olimpiadi per andare a fare vacanze all'estero e evitarsi tutta la confusione del periodo. Per cui veramente, osservando la storia delle Olimpiadi, almeno degli ultimi 50-60 anni, non si osserva un solo caso di Olimpiadi di successo, con le due eccezioni, una l'hai ricordata tu, è quella di Los Angeles nel 1984, che però è stato un caso molto particolare, nel senso che il CIO ha dovuto cedere al progetto di Uber per il semplice fatto che quella era l'unica candidatura avanzata dopo il fallimento clamoroso di Montreal 76, per un'edizione delle Olimpiadi per cui ricordiamo i canadesi hanno pagato tasse per 30 anni. Ricordiamo che anche quest'anno il CIO fa fatica a raccogliere candidature, tant'è vero che hanno allargato i cordoni della borsa di accettazione iniziale, lo ricordava prima il collega Ruta. Puoi commentare anche su questo, perché la verità è che se ne stanno rendendo conto in tutto il mondo che le Olimpiadi non sono quel grande affare, diciamoci la verità. Posso ricordare una cosa che un ascoltatore di Roma con SMS ci dice, ed effetti è come dice lui, anzi non è di Roma, è di Bologna il nostro ascoltatore. Il comune di Roma non ha ancora finito le rate di ammortamento per il pagamento delle terre, cioè delle aree su cui sono stati realizzati gli impianti delle Olimpiadi del 1960. Ecco, io voglio solo dire questo, perché queste sono fatte, perché vedo che, cari compari, noi stiamo suscitando un coro di incazzatura generale, ci insultano a gogo dicendo non c'è il contraddittorio, come prima avevamo un ospite a favore, poi noi abbiamo delle opinioni e qui non ci sono numeri, ragazzi. Se a voi piacciono gli entusiasti senza numeri, oh, benissimo, c'avete tutto il resto dell'offerta mediatica italiana, per così dire, ma noi qui ci interroghiamo ironicamente sul fatto che i numeri non ci sono. Ci sono i numeri, quelli di cui stiamo parlando, come se ne hanno trovato, che ci inducono a riflettere, a grattarci la testa. Ci sono precedenti italiani, lontani, ma anche recenti. Possiamo parlare di numeri o bisogna passare dall'idea che è meglio farne a meno? E a me preoccupa molto questo tipo di dibattito sulle Olimpiadi. Poi, per carità, ci sono anche messaggi che arrivano e dicono no, però con questo spirito non si va da nessuna parte. No, poi vogliamo anche dire che comunque queste infrastrutture o questi eventuali investimenti, per quanto possiamo immaginare delle Olimpiadi low cost, possono anche permettere a Roma di essere ancora più ricettiva, visto che comunque l'Italia deve, lo diciamo sempre, di settimana in settimana sfruttare le proprie risorse, e noi abbiamo delle risorse meravigliose a livello turistico. Forse questo lavoro e queste investimenti investimenti infrastrutturali sulla città di Roma e magari non solo, possono aiutare anche il nostro paese a migliorare dal punto di vista della ricezione turistica. Allora, ci dice un ascoltatore, e giro la domanda al nostro Massimo Trotto del Suburro Leone, però ci sono anche esempi, Barcellona, di magnifica riqualificazione urbanistica e di moltiplicatori, in quel caso nell'attrattività e nella crescita con effetti permanenti. Questi esempi che ci sono, che cosa ci insegnano, Massimiliano? Ma io francamente parlerei di esempio singolare, era l'altro esempio dei due che stavo citando prima. Effettivamente a Barcellona c'è stato un notevole sviluppo della città dopo le Olimpiadi, però anche lì era una situazione molto particolare, nel senso che era una città che praticamente non esisteva sulle cartine del turismo mondiale, era una città particolarmente in crisi ed era una città che comunque anche in quel caso ha registrato sforamenti dal budget per il 400%, 400%. Quindi, è vero, cara Francesca, tu vuoi andare a Roma, però 400% poi li paghiamo noi, eh? Questo Atene idem, correggimi se sbaglio, Atene anche disse che pagava X i costi, escluse le infrastrutture pubbliche da fare aggiuntivamente, comunque si rivelano superiori al 200%, ho torto Massimiliano? Credo che l'errore fosse in quest'ordine di grandezza. Sì. E puntiamo ai privati allora, vedi che una soluzione forse c'è? Cerchiamo le soluzioni ragazzi, dai, tiratemi fuori le soluzioni. Sono fare le Olimpiadi in un posto solo, tutti i 4 anni e ben infrastrutturato, e le facciamo lì le Olimpiadi. Se il problema sono l'attività sportiva, signori, portiamo a fattor comune e a ingegneria collettiva un principio organizzativo, cioè le Olimpiadi si fanno in un posto solo e dopodiché si organizzano intelligentemente. Se poi gli stati invece hanno problemi di narcisismo istituzionale o di occasioni per spendere soldi pubblici, questa è un'altra cosa, ripeto, sono scuse per distrarre il popolo. Va bene, voto per le Olimpiadi in un posto solo, dai. Ma io sono d'accordissimo con Carlo Alberto, una delle proposte che faccio nel paper. Esatto. Per rispondere alla domanda precedente di Carlo Alberto, credo anch'io che ci sia una presa di coscienza a livello internazionale. Per le Olimpiadi invernali del 2022, dopo il ritiro di Oslo, sono rimaste unicamente le candidature di due città. Una è Pechino e l'altra è la capitale del Kazakistan. Ci stiamo spostando sempre più, questo lo vediamo anche con i mondiali di calcio, certo, verso un modello in cui i grandi eventi sportivi li organizzano le autocrazie, che sono le uniche che non hanno problemi, esattamente, senza controllo. Io faccio. Io vorrei andare in Kazakistan, mi piacerebbe. Sì. Sì, mi mandi? Ti mando. Faccio la vostra corrispondente. Vale la pena, vale la pena andarci. Io faccio riflettere ai nostri ascoltatori. Perdonate, non abbiamo detto ancora una parola. Noi la città di Roma abbiamo fatto due salvataggi pubblici. Uno all'inizio del governo Alemanno e uno con il sindaco del sindaco Alemanno e uno con il sindaco attuale. Sommando si tratta di quasi 14 miliardi il primo e 2 miliardi e 8, sono diventati più di 3 miliardi e 400 alla fine di quest'anno. Sommate, e tutto questo avviene dal 2008 al 2014. Questo è quello che al contribuente italiano, in aggiunta al solito, perché i romani hanno tutte le aliquote al massimo, quindi anche i romani strapagano, costa Roma. Allora, voi mi dite che io non sono patriottico? Io non so cosa dire. Pagate tutti, siate felici, siate contenti, e soprattutto non chiediamo neanche perché cosa paghiamo, perché altrimenti diventiamo degli obiettori. A me non piace questa logica, a me piace riflettere. A me Roma sembra un pozzo senza fondo. Cioè l'ATAC 11 bilanci consecutivi di perdite che stanno tra i 2/3 e i 4/5 di quello che ricavate a biglietti ogni anno. Ma di che cosa? Cioè... Ma Oscar, scusa, a me mi pare che ci sia un discreto olezzo di regime però nel dibattito pubblico di questo paese, perché quando si parla di disfattismo, antipatriottismo, cioè queste sono cose che sinceramente mi fanno prudere le mani, no? Perché io veramente l'altro giorno una giornalista di una testata nazionale progressista, ribattendo ad una mia opinione su Twitter, ha detto: ma si potrebbe essere un po' meno disfattisti. Stiamo veramente pervertendo la lingua italiana. Noi abbiamo il conducator che guida il paese verso la felicità e tutti quelli che osano obiettare sono disfattisti. No, ma io mi limito a ricordare i numeri. Adesso ho usato anch'io questa parola, adesso dopo... No, ma di senso comune è un conto. Però quando viene detto da gente che si schiera in maniera molto virulenta, diciamo... Sentiamo gli ascoltatori. Stefano da Roma, prego Stefano. Come la pensi? Sì. Allora, complimenti a tutti perché... secondo me voi sareste un ottimo comitato olimpico di valutazione. Io, Carlo Alberto e Mario di sicuro, io un po' di parte, però Carlo Alberto... ma anche Francesca, io ho sentito delle ottime opinioni, quindi il mio contributo vuole essere molto piccolo. Io penso di fare impresa da 15 anni in questo paese con tanti sacrifici. Credo che, non dando una mia opinione personale, ma semplicemente valutando le parole di Renzi, dare un obiettivo a questo paese non è dare un obiettivo a 24 anni, cioè dal 2024... per delle Olimpiadi che, se poi andiamo anche a guardare quanti praticano sport in questo paese, avrei dei dubbi sull'efficacia di un messaggio. Ma andrei a guardare veramente che cosa vuol dire fare le Olimpiadi oggi. Oggi le Olimpiadi sono un momento per lo sportivo in un'età molto ristretta, tra i 18 e i 25 anni, dove si confronta con tutti gli altri. L'Italia non ha bisogno di questo per risolvere, ha bisogno di un progetto molto piccolo o molto diffuso su tutto il territorio, non concentrato su un'unica città o su due città. Cioè, vogliamo recuperare fiducia negli italiani anche nel credere in questo paese? Benissimo, non saranno le Olimpiadi che ci faranno fare questo salto, ecco, mentale, ecco, di qualità. Io sono molto, molto d'accordo, però rispetto anche le opinioni altrui. Federico da Milano, come la pensa? Federico? Ma allora, mi sentite? Sì. Sì, Federico. Secondo me una delle vocazioni principali dell'Italia è il turismo. Io, da quello che ho capito parlando con persone legate al CONI, il programma prevede nel 22 la Ryder Cup, nel 23 i mondiali di rugby, nel 24 le Olimpiadi, nel 25 non c'entriamo noi il Giubileo. Sono 4 anni di programmazione per una città, Roma, che è il cuore del turismo italiano. Se la città viene ristrutturata da tanti punti di vista, non solo quello ovviamente sportivo. Tu pensi ma... sì o no a quel punto, dopo tutte queste premesse? Assolutamente sì. Solo pochi flash ancora per dare soddisfazione ai nostri ascoltatori sugli SMS. C'è Giuliano che mi ha fatto molto ridere perché ha trovato la soluzione per pagare le Olimpiadi di Roma. Lui dice che si offre di qui al 2024 a fare lo spiritoso per 380.000 euro a pagina del Vangelo, visto che Benigni questa settimana ha dato l'idea di come si tirano sui denari. Ammettiamolo, è una bella battuta per rendere omaggio naturalmente al successo di Benigni sulla RAI, il servizio pubblico. Detto questo, no, guardate che sono tanti quelli che dicono, come Paolo, altra voragine di corruzione e latrocinio, assolutamente no. Sono anche tanti quelli come Raud da Modena, che naturalmente mi dà del ridicolo, eccetera eccetera, perché dice che noi non abbiamo contraddittorio. Non è che non abbiamo contraddittorio, abbiamo dedicato metà a un ospite che è a favore e che ha ammesso che i numeri non ci sono, ma bisogna crederci, e metà che ci ha dato i numeri, ha scritto un documento a cui vi rinviamo con i numeri comparati delle cose precedenti. Quindi guardate, piantatela lì di dire che chi obietta non ama il contraddittorio dei fascista, perché i fascisti siete voi, se la pensate così, chiaro? Perché pensate che la vostra idea, se manca la vostra idea, manca la libertà. No, noi le aspettiamo tutte, e su questo io sono a brasino le risposte, perché arrivano insulti e quindi mi dispiace, agli insulti si risponde con ragionamenti. Detto tutto questo, torneremo su questi argomenti, perché Roma, ma andiamo a un'altra questione che ci sta molto a cuore e che riguarda internet, la rete, perché caro Alberto, noi siamo convinti che internet, la rete, sia una questione di produttività, di democrazia, di cambiamento del vecchio metodo. Le infrastrutture che ci servono probabilmente sono innanzitutto queste, più che pensare come si fanno e non si fanno. Renato, prima ci dicevi una cosa, se uno guarda come funziona negli altri paesi, perché tu hai esperienza internazionale, e qua non è che negli altri paesi non ci sia la corruzione che c'è a Roma, ma la corruzione c'è dappertutto. Io ho sempre detto che la differenza vera è che nella maggior parte dei paesi prendono una commissione di agenzia, chiamiamola così, e fanno poi le cose giuste al prezzo giusto. spesso in Italia facciamo opere che non servono solo per avere una commissione d'agenzia detta così, un po' più alta. Un po' più alta, senza le opere però. E spesso le opere poi non le finiamo perché è piena l'Italia di opere. Allora, fino praticamente alla fine adesso parliamo di rete, ma in diverse articolazioni. Avete visto questa settimana Istat che ha fatto una fotografia abbastanza amara della distanza che resta molto forte per milioni di italiani rispetto all'utilizzo della rete. Noi abbiamo 22 milioni di italiani che la rete non sanno che cos'è, non la usano, c'è poco da fare. E contemporaneamente però, su questo sfondo, e ponendoci il problema di che cosa si può fare, pubblico e privato, per questo, però ci poniamo anche la domanda di capire le vostre ricerche in rete, che cosa ci svelano di voi, caro Alberto? Perché sono uscite queste cose di Google. Di che si tratta? Google è un po' lo sportello unico nazionale delle preoccupazioni degli italiani in formato digitale, perché rivela alla fine dell'anno quello che l'anno scorso chiamavano lo zeitgeist, cioè lo spirito del tempo. Quest'anno ha chiamato più anglosassonicamente trends, ok? Cioè dicono che cosa cercano gli italiani, perché siamo ciò che cerchiamo. E internet è diventata la grande coscienza collettiva di un paese, anche di un paese che fa fatica ad avvicinarsi. E quindi la cosa interessante, voglio discutere con Francesca, è che curiosità hanno gli italiani, perché scrivono su questo magico quadrante colorato con questi sette colori, scrivono le loro curiosità, i loro dubbi, cosa cercano. E a noi è interessato andare a vedere cosa hanno cercato, in particolare su tematiche come risparmio, la casa, pagare, risparmiare, comprare, temi dell'economia. Dimmi tu, Francesca. Le migliori secondo me sono legate al risparmio, comprare e pagare, e tra queste ci sono per esempio risparmiare la batteria dell'iPhone, giusto per rimanere molto tecnologici, sul carburante, poi risparmiare sul riscaldamento, la bolletta della luce, i rifiuti. No, scusa, mi viene da ridere perché tu dicevi riscaldamento, aumento in legge di stabilità dell'IVA, capite, dal 4 al 22% per chi ha preso l'impiantamento con i pallet di riscaldamento. Guardate, è una sberla clamorosa. Poi dicevi carburante. Aumento in legge di stabilità della accisa per 2,4 miliardi di entrate aggiuntive. Poi andiamo avanti, rifiuti. No, vai pure avanti. Poveraccio. Poi mi dicono che sono disfattista. Il che ti dimostra, come vedi, che Google è termometro dell'andamento fiscale degli italiani, perché il governo legge le ricerche di Google e dice: ah, state cercando come risparmiare sul riscaldamento, aspetta che vi tassiamo di più. Esatto, quindi c'è un uso, come vedete, intelligente, fiscale del governo delle ricerche di Google. Andiamo a vedere invece sulla componente risparmio, no? La cosa interessante per esempio è che c'è ancora tanta gente che cerca la parola oro, vendere oro, comprare bitcoin. C'è una cosa interessante, no? Sta cominciando ad apparire il primo segnale di interesse per le monete elettroniche, per le criptomonete. Più che altro una curiosità per capire curiosità. Che cos'è, no? La cosa interessante per chi la pensa come noi, interessante. È molto interessante, nell'ultimo mese una picco su comprare online, regali online, shopping online, questa è una cosa esplosa nel però c'è anche mese. Comprare un flipper, e questo secondo me è sempre dell'ultimo mese, qua c'è Natale di mezzo. Comprare un flipper? Sì, è una delle ricerca di massa degli italiani. Assolutamente sì. Cosa ti devo dire? Anche un cavallo c'è. Popolo di anziani, quindi. Esatto. Capito, esatto. La rete eccetera, il flipper, qui stiamo parlando di archeologia. Naturalmente modernariato va sempre bene, non dico di no, non voglio mancare di rispetto a nessuno, però il flipper. No, poi scusami, ritornando alla parola del risparmiare, tra i trend c'è anche risparmiare sul matrimonio. Te lo dico solo perché adesso però non cominciamo con la solita storia sul matrimonio, che piace, di queste trasmissioni di quattro matrimoniali. Sposarsi costa non parecchio, così non risparmi in maniera definitiva. Vedi, Mario lo sa, vedi, ha sempre la risposta giusta, non ti sposi risparmi il 100%. No, ricordati che c'è la tassazione retroattiva aumentata e legge di stabilità sul risparmio previdenziale, quindi risparmiare sulle pensioni. Guarda che non mi provocare su questo, perché non la finiamo più con queste non robe qua. Più. No, ma io voglio, voi che avete guardato, adesso ne parleremo ovviamente con Google, ma voi che avete guardato bene queste tabelle, in realtà che cosa ci dicono secondo voi degli italiani? Gli italiani usano internet con la testa rivolta al passato, come a me sembra da molte di queste ricerche, oppure con la testa rivolta al futuro. Caro Alberto, tu che dici? Fino adesso la ricerca su Google è una ricerca volta a interpretare il presente, l'immediato, cioè Google risponde ai dubbi immediati sul significato delle parole. Per esempio, una delle parole più cercate quest'anno è selfie, no? Quando i nostri nonni avrebbero detto autoscatto, no? Quindi Google è l'amico, il compagno di banco a cui chiedere di dirimere dei dubbi dell'immediato. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui tornati in diretta con i compari dei conti della belva. Stiamo parlando delle vostre ricerche su internet nel 2014, che cosa ci dicono, e per capirlo meglio abbiamo due ospiti. Innanzitutto Simona Panseri, cioè, visto che le ricerche sono su Google, quindi di Google Italia. Buongiorno e grazie di essere con noi, Simona. Buongiorno, grazie a voi. Allora, dal vostro punto di vista invece, queste ricerche che cosa dicono? Per voi naturalmente queste ricerche sono, non voglio dire che sono tutto, ma quasi, perché l'algoritmo, che è la vostra forza, interpreta evolutivamente che cosa gli italiani pensano, chiedono, il mercato. Naturalmente queste ricerche valgono anche tanto loro quanto pesano per chi deve interpretare il mercato, ma al netto di questo, che però per voi è la componente fondamentale, siete una grande azienda internazionale, un modello di successo, che cosa vogliono dire sull'Italia ai vostri occhi rispetto al vostro cliente italiano? Beh, innanzitutto vorrei chiarire che cosa sono queste ricerche. Non sono i termini in assoluto più ricercati, che tendono ad essere più o meno sempre quelli, e non vi sorprenderà sapere che il meteo è sempre più o meno in testa alle ricerche. Sono i termini emergenti, ovvero sia quelli che rispetto alla norma rompono, hanno dei picchi, sì, di esatto, ricerche picchi più significativi, e questo dimostra che seguono l'andamento dell'attualità. E infatti ogni anno all'interno delle ricerche delle parole emergenti si ritrovano fenomeni di attualità che possono andare dai mondiali a Ebola, piuttosto che al caso che riguarda Toto Schumacher o la grande bellezza che quest'anno appunto ha vinto l'Oscar, in aree molto diverse. Quindi mi confermi, Simona, che sono un complemento della cronaca. Buona parte delle ricerche sono una pulsazione, per cui la gente che non trova risposta diciamo formale, istituzionale, nei media tradizionali, si rivolge ai motori di ricerca per poter essere poi indirizzata sul tema d'attualità. E questa è una cosa. Però molto fanno spesso in interazione, al punto che se noi queste stesse trend delle ricerche andiamo a vederli giorno per giorno, anche ora per ora, perché sono disponibili per tutti su Google Trend, è possibile vedere quali sono i trend emergenti alla luce di quello che sta succedendo nella nostra società. Vorrei far notare che tra i trend emergenti c'è come fare politica all'ottavo posto, ragazzi, attenzione. Al primo posto c'è barbecue e al secondo ciambelle, però all'ottavo politica. Eh beh, scusami, ti dà l'idea di come gli italiani la considerano. Lo dico. No, ecco, adesso questa è una battuta. Come stanno interpretando invece le aziende? A me interessa capire chi legge questi dati e se sta imparando ad usarli, perché un'altra delle cose importanti da fare con i motori di ricerca non è soltanto scriverci per ottenere delle risposte, è leggerli. E questo è l'altro tema importante, l'invito alle aziende italiane, a tutti, diciamo, anche ai politici, a capire cosa emerge da questi trend per poi decidere campagne di marketing, campagne di comunicazione, lancio di prodotto, scelta editoriale. Ricordo che buona parte delle aziende in America editoriale usano i big data, cioè l'analisi dei dati delle ricerche, per poi stabilire il palinsesto delle proprie scelte editoriali. Ci puoi commentare qualcosa, Simona, su questo? Questo senza dubbio è un tema estremamente importante, è un tema sul quale forse si può dire che in Italia stiamo ancora muovendo i primi passi. Naturalmente l'affermazione è generalizzata e quindi ci sono degli esempi di grande eccellenza che non rientrano in questi casi. Però nella media siamo indietro, diciamolo. nella media stiamo cominciando ad imparare che attraverso l'analisi di questo tipo di informazioni c'è la possibilità di offrire alle persone, ai cittadini e a quelli, se siamo aziende, che sono i nostri consumatori, dei servizi o dei prodotti che sono molto più vicini rispetto al loro interesse. E questo allora, è particolarmente vero non soltanto per le ricerche degli italiani in Italia, ma anche per le ricerche del mondo sui prodotti italiani, che è un'altra delle cose su cui è importante lavorare. Secondo te, Simona, gli italiani o le aziende italiane hanno capito che usare con intelligenza le keywords, cioè le parole chiave di ricerca dei motori, consente di capire come la domanda mondiale di prodotti o servizi italiani o destinazioni italiane, c'è un gran bella sezione dedicata al turismo, alle destinazioni, è una guida per investire e per promuovere i propri prodotti? Non saprei dire quanto l'abbiano capito, posso dirvi che è talmente importante che come parte di un progetto molto grande che stiamo portando avanti legato al Made in Italy, all'avvicinamento delle aziende italiane, anche soprattutto le medie e piccole che si occupano di Made in Italy al potenziale del digitale, stiamo proprio facendo attività di formazione anche su questo. Il potenziale di internet per l'export è estremamente elevato. E come tutti sappiamo, in un momento di crisi, stagnazione economica, guardiamola un po' con l'occhio che preferiamo, ma evidentemente l'export è un grandissimo potenziale per la crescita. Allora io e naturalmente quindi... a questo punto faccio rompiscatole disfattista, ricordo a tutti coloro che sono in ascolto che le esperienze pubbliche con portali come italia.it e così via sono state un disastro assoluto, primo rivelando una archeologica convinzione di che cosa sia un portale, come funziona la rete, eccetera eccetera, secondo offrendo una penosa diversificazione delle stesse lingue con cui si offriva il servizio, penosa, peggio che penosa, quindi un livello di apprendisti rovinatori dal punto di vista di quello che hanno dissipato, e questo è quello che vedo io. Naturalmente io sono il disfattista, ricordo che mentre i manager, che Dio li abbia in gloria, privati assunti per mettere in piedi Expo, la squadra di sala grazie ai quali si farà Expo e quel buono che ne verrà da Expo grazie a loro, nel frattempo lo Stato smantellava Enit in tutto il mondo, mentre c'erano le delegazioni dei manager di Expo che dovevano, i 144 soggetti che faranno Expo da tutto il mondo, lo Stato smantellava nel frattempo la rete di Enit, che bisognava smantellare, sì no, ma forse non negli stessi mesi in cui bisognava portarci a casa, a proposito di turismo, ma io sono disfattista come noto, io vedo solo le cose di questo Stato meraviglioso che vedete voi, io le vedo solo al contrario, ma sarà. Abbiamo con noi anche il professor Davide Bennato, che insegna sociologia dei media digitali all'Università di Catania. Buongiorno professor Bennato. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, noi stiamo parlando di queste trend nuovi nelle ricerche su internet degli italiani, italiani che però per 22 milioni, ci dice l'Istat, la rete non sanno cosa sia, non la usano. Vabbè, ma molti sono bambini molto piccoli o persone un po' più anziane, diciamolo, se no allora, sembriamo proprio... Non hanno alcuna scusa, mi piace Francesca, perché la penetrazione di internet allora, in quelle stesse fasce d'età in Europa è almeno 15-20 punti in più. Quindi c'è una scelta perché... culturale che adesso chiederò una al scelta... professore, sentiamo, perché se io ho un bambino... di 6 anni magari non voglio farlo andare su internet, perché? Anche se quindi... conosce le tecnologie, aspetto ancora un attimo, noi siamo forse cioè tu sei convinto noi che mamme... i nostri 22 milioni di italiani dipende da quello che non no beh però che... il 52% delle persone, cioè siamo a delle percentuali molto alte tra i 6 e i 10 anni sì. Il 52% sono dei bambini non tocca internet, ma basta con Francesca aspetta aspetta un attimo, no, i papà stanno lì che fanno sesso su internet. Sì ecco bravo esatto, ma, probabilmente ma magari no, se vogliamo parlare delle statistiche poi scusate adesso. Però quella è un'altra è statistica, è un altro come giorno, si fa un altro orario. Allora, Renato, tu che dici? No, quello sempre. Allora, quello tutte le ore su qualunque sito. Ogni business sex driven è un buon business. È un buon business. E questa è la voce del nostro imprenditore del gruppo, è questa qua. No, professor Renato, al di là delle nostre ironie sabato mattina, ma nella realtà queste ricerche degli italiani, se dovessimo mettere in termini comparati, che cosa ci dicono del nostro ritardo anche digitale? Sì, diciamo che l'utilizzo della rete di Google, soprattutto per quanto riguarda la ricerca delle keyword, bisogna sempre leggerle in maniera contestuale, perché molto spesso se noi ci concentriamo sulla singola parola chiave abbiamo più che altro una visione molto generica di quelle che fanno gli italiani online. Sicuramente è un indicatore, ma io non ci farei molto affidamento. Quello che sono più interessanti poi sono le frasi, perché sulle frasi le persone creano un tipo di contestualizzazione di un certo livello, e sulle frasi emergono delle cose interessanti. Poi per quanto riguarda la questione dei famosi 22 milioni di persone secondo l'Istat che non utilizzano internet, e quello, diciamo così, è una novità dal punto di vista contestuale italiano, ma non è dal punto di vista generale, perché detto altrimenti, che ci siano fasce di utilizzatori deboli di internet, una cosa che si sa ormai da moltissimo tempo, anche perché internet non è una tecnologia, è una strategia di relazione sociale, quindi se intorno a me non ho persone che utilizzano la rete, non vedo perché io dovrei utilizzarla, questa cosa non ce la dobbiamo dimenticare. No, aspetti, però io la interrompo, perché dice non è una tecnologia, una strategia di elevazione sociale, però è anche vero, diciamolo, che ci sono, come noto, no, nella area grigia italiana rispetto al bianco e nero dell'offerta dei servizi, di quanta ampiezza di banda e così via. Questo è un problema che riguarda ancora un bel po' di superficie del nostro paese ed è un problema tragico per quello che riguarda proprio il gradino che le piccole imprese devono salire per utilizzare internet, come dice sempre Carlo Alberto, e auspichiamo noi, cioè per innalzare la produttività e cambiare la mentalità di come si fa l'offerta e la domanda di servizi con i propri clienti e fornitori dovunque. Certo, se non c'è un minimo di banda per farlo, quindi c'è anche la componente infrastrutturale, però, professore. Sì, no? Sì, la dimensione infrastrutturale e strategica, però bisogna stare attenti a non considerarla l'unico meccanismo della penetrazione di internet in Italia, perché è anche vero che esistono casi, e non solo italiani, anche a livello internazionale, in cui la banda larga disponibile è stata sottoutilizzata. Bisogna sempre fare un equilibrio fra le due cose, un'opportunità sicuramente tecnologica creata grazie a infrastrutture, ma dopo l'opportunità tecnologica ci vuole anche un'opportunità, metto le virgolette, sociale, cioè sì, anche capire per quali sono i motivi che spingono una persona ad andare in rete. Questo andare in rete, appunto, i bambini. Perché Francesca, per esempio, dice che noi siamo prescrittivi, quindi non li mandiamo in rete i bambini perché le mamme italiane sono molto. No, però c'è anche questa analisi da fare, secondo me, che ci sono anche delle famiglie che hanno internet, hanno tutta l'apparato, diciamo, strutturale, e ma poi magari decidono di non. Sì, ho capito, ma al di là di questa natura che la prenderò tra poco quando diventerò padre, ma al di là di questa natura così che mi fa un po' aborrire perché non vorrei vietare troppo, ma non è che semplicemente 6 milioni di italiani, al di là del problema infrastrutturale, come giustamente ci fa osservare Davide Bennato, ma non hanno proprio l'idea di che cosa farsene della rete, cioè hanno un problema basilare di comprensione. Ma infatti internet va resa indispensabile, non facoltativa, semplicemente spegnendo i servizi analogici. La gente, se vuole i servizi, se li andrà a prendere su internet. Voglio vedere quanto tempo ci vuole, cioè, per comare il ghetto. Dice che lo Stato fa questo? Ho capito. No, lo Stato fa il contrario. Allora, no. Carlo, sono Alberto, io sto dicendo che non ce lo possiamo permettere. Bravo. Un sistema parallelo. Questo di servizi analogici. Il digitale è diventato un costo aggiuntivo, per cui la gente dice: ma è scomodo, è meglio fare la coda allo sportello. Sentiamo i nostri due ospiti su questa opinione di Carlo Alberto. Simona, come la pensi? Io direi che non ho un osservatorio privilegiato sul comportamento delle persone, se non di quelle che mi stanno intorno, di diverse fasce d'età, ed è vero che a mano ci si rende conto dell'utilità del servizio, lo si ritiene sempre più indispensabile, questo indipendentemente dall'età a cui ci si avvicina internet, anzi in particolare lo vedo in persone che senz'altro non sono nativi digitali. Già oggi ci sono moltissimi servizi che risultano utili nella vita quotidiana e non c'è come cominciare ad utilizzarlo e a conoscerlo e a rendersi conto dell'utilità per avere il desiderio anche di approfondire e scoprire altri servizi. Quindi più servizi, più utilità, maggiore penetrazione. Simona, guarda, posso dire una cosa? A mia ammirazione personale, non si esprimono neanche gli ambasciatori della Farnesina ormai, nei termini di una diplomazia così ore rotundo come fa un manager di Google Italia. È un piacere sentire. Sentiamo il professor Bennato, un po' più tagliente magari, professore, va, ecco, cioè quanto qui siamo ancora carenti a livello di massa nel nostro paese, di comprensione basilare dell'uso, lei dice di elevazione sociale, ma forse anche proprio di comprensione basilare. O no, o sbaglio? No, ormai l'ISAT su questo ha fatto assolutamente piazza pulita, cioè l'utilizzo e l'importanza, la percezione di internet come uno strumento importante declinati su diversi servizi dipende anche dal titolo di studio. Ora, sicuramente non c'è un rapporto causa-effetto, ma la capacità di comprendere la complessità del mondo anche attraverso la rete è sicuramente un punto importante, e questo soprattutto fa capire una cosa. Io mi sentirei da questo punto di vista, e questo lo fa il rapporto ISTAT, di radere al suolo la retorica dei nativi digitali. Non esistono i nativi digitali. Non esistono. Non si nasce. No, non esiste. Non si nasce con il computer in testa e la rete già presa, per così dire. Amen. No, assolutamente non è possibile essere a capire la rete e le opportunità. È semplicemente un tipo di una cosa che va a cui bisogna educare le persone. Non esistono i nativi digitali come non esistevano i nativi televisivi o i nativi alfabetici. Allora, continuiamo sul tema idealmente che abbiamo iniziato in questa seconda parte della trasmissione interrogandoci sulle vostre ricerche su internet e sui dati dell'Istat, che terminano le speranze mie di vivere abbastanza da vederci veramente digitalizzato. Ma Carlo Alberto è molto ottimista, dice che bisogna fare una transizione ruvida al digitale. Allora ci siamo posti il problema: se affrontiamo ciò che la pubblica amministrazione offre ai cittadini, che giudizio possiamo averne? Dovrebbe essere la locomotiva del treno, no? L'agenda pubblica digitale, la trasformazione dei servizi digitali dovrebbe essere un traino moltiplicatore del passaggio al digitale. E poniamoci il problema, e Renato Cifarelli ha fatto qualche ricerca e avendo qualche impressione. Ma sì, io mi sono dedicato alle ASL più che altro perché mi sono chiesto quali sanità, sono i servizi. L'azienda sanità. Aziende sanitarie locali, poi ho scoperto già che si chiamano in 10 modi diversi, sì, a seconda della regione, e perché mi sono chiesto qual era uno dei servizi principali che lo Stato ci dà, ed è la sanità. La cosa è sconfortante in un modo, cioè, non lo so, io non so se sono un nativo digitale, sono abituato a usare la rete, ma i siti delle ASL sono fatti esattamente al contrario di come dovrebbero essere fatti per l'utenza tipica che hanno. Io parto dalla cosa più stupida: sono quasi tutti anziani, scritti non in piccolo, di più, ma ancora di più di quanto tu stai pensando. Allora, corpo 1 praticamente. No, ma basta farci un giro. E poi la cosa che ho scoperto parlando di soldi è che ogni ASL ha il suo, cioè ogni ASL ha fatto il suo sito, hai capito? E quindi ogni ASL ha probabilmente qualcuno che ha preso su, ha fatto il sito, non hanno uno standard per i nomi, vabbè, quello io sono un po' un maniaco. La ASL Roma ha, dalla A alla H io sono arrivato, una è com, una è info, una è IT, una si chiama SL Roma, l'altra RM. L'altra. Ah, cioè non c'è neanche proprio un minimo standard. Non esiste un minimo di standard. Hai capito. Facendo una ricerca sui comuni abbiamo scoperto che un sacco di siti dei comuni hanno il dominio che non è intestato al comune ma è intestato a chi ha fatto il sito. Sì, è così. E quindi nei comuni, cioè, piccoli è quasi sempre così. Perché se il comune non paga quello che ha fatto il sito, quello che ha fatto il sito è detentore. Certo, può chiuderlo. È detentore del dominio, cioè tu vai su quello che dovrebbe essere il sito del tuo comune e ti trovi la pubblicità di Oscar Giannino. Allora, la mia opinione, lo dico da cittadino e paziente di patologie, insomma, io non ho mai capito perché da anni sia così impossibile immaginare che il Servizio Sanitario Nazionale metta in rete una offerta elementare comparata per tipo di patologie, soprattutto quelle serie e gravi, insomma, per cui bisogna andare alla ricerca del meglio, non solo dell'offerta del servizio sanitario, il pronto soccorso più vicino, con una graduatoria comparata per azienda ospedaliera, per tipo di patologia, tipo di intervento, percentuale di successi, percentuale di sopravvivenza, che è lo standard internazionale per misurare anche l'efficienza delle aziende ospedaliere. C'è un'unica cosa che io conosco, che di cui ogni anno quando esce il report faccio la trasmissione, che è il rapporto Agenas, che viene fatto appunto dal Servizio Sanitario Nazionale, però senza alcuna indicazione delle aziende ospedaliere, per dati comparati nazionali per alcuni tipi di intervento, per alcuni tipi di patologie e in termini internazionali. Ed è comunque allucinante, perché quando ne abbiamo parlato in trasmissione abbiamo visto che abbiamo centinaia in Italia di aziende ospedaliere nei quali gli interventi per patologie serie e gravi restano al di sotto dei minimi standard che garantiscono sicurezza, ricerca e risorse adeguate. Detto questo, il Servizio Sanitario Nazionale non ve la dà questa roba, non ve la dà. Ci sono alcune regioni, in Lombardia ci sono alcuni dati sulle liste d'attesa per aziende ospedaliere, ma qui il problema è che se ti viene un cancro, te lo diagnosticano, stai, che ne so, in una tipica regione italiana cui c'è turismo sanitario, la Calabria, ti pigli il telefono, chiami gli amici, ti dicono dove andare e non andare, ma tu i dati il servizio pubblico non te li dà. Carlo Alberto, perché? Ma perché la pubblica amministrazione è autoreferenziale invece che essere un servizio per i cittadini. Oggi tu dovresti costruire un processo sulla base di un'interfaccia digitale, invece che esporre burocraticamente con un formato PDF i moduli per compilare la richiesta di un esame. Quindi questo, quello che dobbiamo capire è che internet è il punto di partenza, non il punto di ingresso. Internet è nella sua modalità mobile, cioè per applicazioni con smartphone e con tablet, che è il modo con cui portiamo a bordo, cara Francesca, i settantenni, i settantacinquenni, che altrimenti verranno tagliati fuori, no? Allora, l'educazione parte dal ridisegnare i processi della pubblica amministrazione a partire dalle dita dei cittadini, dalle dita dei pazienti. È da lì che i nostri amministratori devono ripartire per disegnare i processi. Cioè, in altre parole, per evitare che si pensi che sia solo un problema di consulting, non si tratta di portare solo la McKinsey per disegnare i processi, si tratta di portare alla PA gli imprenditori che si occupano di internet, di app come Renato, cioè quelli come lui dovrebbero essere coinvolti nel ridisegnare l'organizzazione del servizio di cui l'offerta è digitale comparata, non è il terminale, è coessenziale con come si immagina, perché in tempo reale, se capisco bene, il nostro mondo oggi ci insegna che dovrebbe essere possibile nel momento in cui il cittadino, se ha la possibilità di prenotare un servizio su un portale online dell'azienda ospedaliera, arriva direttamente a chi lo offre senza alcuna mediazione, senza passare per l'amministrazione. Ma per questo bisogna cambiare la modalità con cui funziona, bisogna portare la gente come lui dentro, o mi sbaglio? Ma è un problema prima di tutto di costruire le basi dati, e noi sappiamo che la pubblica amministrazione in Italia è allergica a qualsiasi cosa che sia misurabile. Tu guarda, anche nella scuola hanno tolto, cioè hanno rimesso l'anzianità perché non vogliono fare misurazioni in Italia. Cioè l'Italia, la PA, PD questa settimana, vi sta dando una notizia in pillola, PD sabato scorso, dibattito buona scuola, proposta Giannini, l'avevamo vista, più scatti di merito, leviamo l'anzianità come drive. PD dice no, hanno ragione i sindacati. Questa è la pillola che vi sta dando Renato. Allora, noi stiamo parlando comunque di uno Stato che dovrebbe fare un bel balzo in avanti su come si ottimizza l'offerta digitale dei servizi. Abbiamo visto con Renato Cifarelli che basta che voi facciate un giro per i domini delle diverse alti italiane, troverete una selva di mancanza di standard, e comunque l'accesso diretto in termini comparati all'efficienza dei servizi, cioè percentuale di sopravvivenza e successo delle operazioni, non lo trovate. E abbiamo con noi invece per pazienti.it, una piattaforma su cui potete andare su internet, il sito, e vedere di che cosa si tratta. Ecco, loro da privati fanno esattamente la comparazione e l'offerta dei servizi migliori di cui voi siete alla ricerca, ed è con noi per pazienti.it Linnea Passaler. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno. Allora, voi siete cosa? Stato travestito da privato? Privati meglio dello Stato? Semplicemente gente che interpreta i desideri dei clienti e dei pazienti? No, noi siamo un sito, diciamo, che si occupa di aiutare e connettere le persone che vogliono informarsi sulla loro salute, che cercano dei servizi di salute, con i professionisti di salute. Quindi cerchiamo di facilitare questo contatto e di farlo con un tratto, diciamo, di umanità e di assistenza e di aiuto e di supporto che tante volte purtroppo, diciamo, a livello di strutture pubbliche non è possibile fornire. Ecco, quindi sul sito le persone possono contattare gli specialisti, possono scegliere trattamenti o esami, possono, soprattutto possono trovare risposte alle loro domande. Quindi, e le risposte quanto costano? No, le risposte scritte sul sito sono gratuite, per cui c'è una rete di medici che volontariamente si mettono a disposizione e rispondono alle domande che gli utenti fanno. Invece, chiaramente, invece il vostro servizio di fare voi la ricerca per l'utente? Noi il sito funziona offrendo una serie di prestazioni e una serie di prenotazioni su cui poi ovviamente c'è una commissione che viene da noi trattenuta, però sostanzialmente tutta la parte di domande e risposte, perlomeno nella sua versione, diciamo, più semplice, che è quella che in questo momento stiamo utilizzando, non prevede che ci sia un pagamento, diciamo, ovviamente con i tempi di risposta che il medico può dare, quindi non certo in tempo reale. Esiste però la possibilità di fare dei videoconsulti, di richiedere delle prestazioni chiaramente a pagamento che permettono alle persone di parlare direttamente con gli specialisti in un videoconsulto. Com'è andato nel tempo da che avete iniziato questa offerta la consultazione, cioè il trend che è in atto su pazienti.it di che tipo è? Aumenta? Sono servizi chiaramente molto recenti che abbiamo iniziato da poco a offrire e che chiaramente richiedono tempo per essere conosciuti, per essere utilizzati. Insomma, anche la cosa positiva, direi molto positiva, è che il mondo della salute risponde molto positivamente a questo discorso, quindi non solo gli utenti lo richiedono, ma effettivamente c'è molta disponibilità da parte degli operatori, cosa che fino a qualche anno fa assolutamente non c'era. Quindi diciamo che c'è una tradizionale diffidenza nel mondo della medicina verso lo strumento digitale, che pian pianino, un pochino penso e spero anche grazie al nostro lavoro negli ultimi anni, si sta sbloccando. Io devo dire, posso dire una cosa? Prego. La mia opinione è questa. Io ho esperienza di medici, professori, chirurghi, non chirurghi, oncologi, eccetera, eccetera. Avendo avuto problemi già parecchi anni fa, di una certa età, devo dirvi la verità, l'equazione professionalmente iperlaureati e così via, e con risultati professionali dal punto di vista medico straordinari, uguale bravi con il digitale e perfettamente in grado di capire come questo possa rivoluzionare l'organizzazione di un servizio ospedale e così via, nella mia esperienza non funziona così, non è che è automatico, caro Alberto. No, certo che no, il fatto che qui stiamo cercando di capire se una generazione di professionisti giovani, e stiamo parlando di specialisti in questo caso, pazienti.it è fondamentalmente una rete di specialisti, certo, che risponde alle domande di prima curiosità, primo orientamento, perché uno dei grandi difetti della sanità italiana appunto è farti sentire abbandonato, farti sentire in balia di un modello burocratico, e secondo me il bel esempio di pazienti.it è proprio di farti sentire ascoltato, farti rispondere a qualche domanda. Sono questi videoconsulti che sono un po' la specializzazione. Infatti chiedevo a Linnea quali sono le domande, le preoccupazioni più interessanti che emergono e chi risponde, no? Quindi quali sono le domande tipiche, quali sono le risposte che danno i tuoi colleghi, Linnea, alle domande che emergono dal mercato? Beh, è chiaro che ovviamente il tema è molto spesso è un tema di rassicurazione e di primo indirizzo, quindi le persone hanno bisogno sostanzialmente in primis di sentirsi ascoltate, quindi di sentire che c'è qualcuno dall'altra parte, che sia diciamo il nostro customer care, che comunque è un customer care specializzato, che li ascolta, che ha gli strumenti per dare e indirizzarli inizialmente, o che sia un medico. La prima risposta che cercano è quella di sentire e sapere che c'è qualcuno, sentire, che ascolta, sapere, infatti. E capire a chi si devono rivolgere in modo più comunque preciso. Tutto ciò che nel pubblico non c'è. Noi continueremo su questa linea, perché anche oggi Conti la Belva sta finendo, quindi la compagnia vi saluta con Carlo Alberto, Mario, Francesca. E voi continuate con Radio 24 e noi continueremo a essere corrosivi. Appuntamento però buon con Natale. La versione di Oscar. Buon Natale, buon Natale. Dai, non andare piano, perché ci sarà i Conti della Belva, sia pure in forma diversa anche per col Natale. Col cappello rosso, esattamente. Ciao da a tutti, buon sabato e domenica. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte l'immagine.